tutta la chiusura, praticando la metta, metta bhavana. So don't forget, you can use these traditional blessings if you wish. Non dimenticate che potete usare queste frasi, no, benedizioni tradizionali se desiderate. May you be safe, well and happy. Tu possa essere sicuro, stare bene e felice. Live contented in peace with the world. Vivere contento e in pace con il mondo. So, let us bring to mind people who've helped us in our lives. Quindi portiamo alla mente delle persone che ci hanno aiutato nella nostra vita. Those who are near and dear to us. Coloro che ci sono vicini e ci sono cari. Friends, people at work, whomever we wish. Amici, colleghi di lavoro, o chiunque desideriamo. Neutral persons. Persone neutre. Turning the stream of goodwill towards ourselves. E poi dirigendo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. And into the heart of goodwill bring somebody we find difficult. E nel cuore della benevolenza portiamo qualcuno che troviamo difficile. Beginning to radiate outwards, first of all, to each other. Cominciamo a irradiare la meta verso l'esterno, innanzitutto verso gli altri in questa stanza, gli uni agli altri. To our neighbors, ai nostri vicini, to all the people in our country. A tutte le persone nel nostro paese. To all the peoples of Europe. Tutti i popoli dell'Europa. To all people on earth. Tutte le persone nel mondo. And finally, to all beings in all directions. E infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. May all beings be happy. Che tutti gli esseri possano essere felici. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. So I hope the day has been fruitful for you. Spero che questa giornata sia stata fruttuosa per voi. That you've been able to balance the day with a little suffering and a little joy. Che siete riusciti ad equilibrare la giornata con un po' di sofferenza, un po' di gioia. So now, don't forget, from now till we fall asleep is also part of our practice. E non dimenticate che da adesso fino a quando non ci addormenteremo fa tutto parte della nostra pratica. So the Buddha is encouraging us to develop a very gentle moment-to-moment mindfulness. Il Buddha ci incoraggia a sviluppare questa consapevolezza attimo dopo attimo. And remember, the trick is to relax. Ricordatevi che il trucco è di rilassarci. And make every action deliberate. E fate in modo che ogni vostra azione sia intenzionale. And these noting words really help you to stay there. E queste annotazioni, queste etichette mentali vi aiutano a stare lì con quello che c'è. And you may also find it helpful to just keep stopping and making the next intention. Potreste trovare utile semplicemente fermarvi e esprimere la prossima intenzione. Don't forget, when you are finally in bed, to put the attention on the breath. Non dimenticate, quando siete finalmente nel letto, di mettere la vostra attenzione sul respiro. Or to practice a simple metta, loving kindness. O praticare una semplice metta, una gentilezza amorevole. Not forgetting to make a fierce determination to wake with the bell. Senza dimenticarvi di prendere un forte impegno di svegliarvi con la campana, con la sveglia. Sleep peacefully. Dormite in modo pacifico. Mm.